24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il vertice tra Stati Uniti e Unione Europea, con Washington e Bruxelles impegnate a fare il punto sulla situazione economica e i rischi di contagio per l'eurozona. L'agenzia di rating Moody's non esclude default multipli nell'area euro, mentre l'OCSE taglia le stime di crescita e prevede un 2012 di recessione per l'Italia. Oggi vi parleremo anche del probabile inasprimento delle sanzioni comunitarie contro la Siria e vi aggiorneremo sulla conferenza sul clima di Durban. A chiudere, un po' di jazz. In apertura dunque il vertice tra Europa e Stati Uniti alla Casa Bianca. Mentre resta alta la preoccupazione nell'eurozona per la crisi del debito sovrano, i presidenti di Commissione e Consiglio, Giuseppe Barroso ed Herman Van Rompuy, sono volati a Washington per un summit con il presidente americano Barack Obama. In agenda la grave crisi economica, con Washington che impreme su Bruxelles per rapide azioni che limitino il rischio di contagio. Gli Stati Uniti hanno fiducia nella capacità dell'Europa di risolvere la crisi, così il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney. Nel weekend l'agenzia di rating Moody's aveva lanciato l'allarme rosso. Le probabilità di default multipli tra i paesi dell'area euro non sono più irrilevanti. Più a lungo la crisi di liquidità proseguirà, più rapidamente saliranno le possibilità di più default. Sempre per Moody's, la rapida escalation della crisi del debito nell'eurozona e nelle banche mette a rischio i rating dell'area euro e dell'Unione Europea, che potrebbero essere rivisti. E anche l'OCSE ieri ha suonato l'allarme per quanto riguarda l'Europa. Ormai per l'Italia si parla di recessione. Taglio delle stime per tutta l'area euro, più contenuta la revisione per l'anno in corso, calo molto più marcato invece per il prossimo anno, dal 2 allo 0,2%, un taglio che colpisce prima tra tutti la Germania, che frena da un più 2,5% stimato solo pochi mesi fa a un più 0,6%. Bisogna agire con urgenza per evitare il peggio, dicono a Parigi, l'imperativo è bloccare il rischio contagio. Per l'Italia l'anno prossimo sarà recessione, la crescita secondo l'OCSE tornerà nel 2013, anno in cui Roma riuscirà sostanzialmente a centrare il pareggio di bilancio. E se è vero che l'austerità tenderà a frenare un'economia già debole, per l'Italia è necessario assicurare la sostenibilità dei conti pubblici. In ogni caso il nuovo esecutivo ha il giusto approccio, secondo Parigi, un piano molto ambizioso, quello di Monti, basato sul risanamento, crescita ed equità. Gli allarmi però continuano a ripetersi e il riferimento all'Italia è evidente. Questa mattina Moody's ha descritto così il contesto. La crisi del debito dell'area euro e delle banche mette a rischio i rating dei paesi. A questo punto le probabilità di default multipli non sono più irrilevanti. Uno scenario che aveva spinto qualcuno a parlare di un prossimo intervento dell'FMI a sostegno dell'Italia con 600 miliardi di dollari. Secca la smentita di Washington. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non ci sono piani per intervenire a sostegno dell'Italia. Questa è la precisazione del portavoce del commissario europeo agli affari economici Olli Rehn dopo le indiscrezioni sull'esistenza di un piano del Fondo Monetario Internazionale per concedere al nostro paese un prestito da 600 miliardi allo scopo di far fronte agli effetti della crisi del debito sovrano. Il 2 dicembre la cancelliera Angela Merkel terrà un intervento sulla crisi europea al Parlamento tedesco in vista del summit europeo del 9 dicembre, lo ha annunciato il portavoce Steffen Seibert. Seduta di rimbalzo per le borse europee che scommettono su nuove misure in arrivo per fronteggiare la crisi del debito. A Piazza Affari il FTSE MIB ha chiuso a più 4,6%. Avvio di settimana in rally per le borse europee che tentano di recuperare terreno dopo le pesanti flessioni delle precedenti sedute. La migliore è stata Parigi, salita del 5,5%, ma si sono messe in evidenza anche Francoforte, più 4,6%, e Piazza Affari, dove il FTSE All Share ha guadagnato il 4,31% e il FTSE MIB il 4,6%. Il rialzo dei listini è arrivato alla vigilia dei 10 giorni decisivi per capire quale sarà la strategia dei vertici europei per contrastare la crisi del debito. Si parte oggi con l'Eurogruppo, mentre domani sarà la volta dell'Ecofin. L'appuntamento cruciale poi per il summit del 9 dicembre, quando potranno essere discusse le ipotesi di revisione dei trattati dell'Unione Europea. In attesa di sviluppi, ieri i mercati hanno quindi scommesso che anche i paesi fin qui più restii ad apportare modifiche importanti alla governance europea potranno tornare sui propri passi. A beneficiarne sono stati in primo luogo i titoli delle banche, ma anche l'intero settore industriale. Paolo Paronetto da Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Unione Europea si prepara a varare un inasprimento delle sanzioni contro la Siria, soprattutto nel settore dell'energia. È stata raggiunta un'intesa preliminare per allargare le sanzioni comunitarie a tutto l'export di equipaggiamenti e tecnologie nel settore degli idrocarburi utilizzati per le attività di estrazione, esplorazione e produzione. E il segretario generale della Lega Araba, Nabil El Arabi, sarà giovedì a Bruxelles, dove parteciperà al pranzo di lavoro dei ministri europei. Sarà approvata il prossimo 14 settembre la revisione della direttiva sulla trasparenza delle procedure per facilitare la libera circolazione dei medicinali in Europa, lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione, Antonio Tajani. Avanti tutta verso un unico accordo globale vincolante, al massimo per il 2020. L'Unione Europea punta ad incassare una roadmap verso questo obiettivo alla conferenza ONU sul clima, al via ieri a Durban. A Copenaghen, i leader del pianeta si sono impegnati a contenere il riscaldamento globale entro i 2 gradi centigradi. Ora è il momento di mostrare cosa questo significhi, ha affermato il commissario al clima Connie Hedegaard. Con la crisi economica, solo in Italia sono aumentati i tempi e i ritardi nella dinamica dei pagamenti, tanto che non solo il paese continua ad essere la maglia nera in Europa, ma è addirittura peggiorato. Lo sostiene la CGA di Mestre, che ha messo a confronto i tempi di pagamento medi effettivi e i ritardi medi di pagamento avvenuti tra il 2009 e il 2011 nei principali paesi europei. La comparazione ha riguardato 3 tipologie di transazioni economiche: quella tra imprese e pubblica amministrazione, quella tra imprese privati, quella solamente tra imprese. Ora, gli spettacoli stanno facendo molto discutere in queste ore le parole del maestro Riccardo Muti, a microfoni di Radio 24, sui suoi colleghi che mantengono la residenza all'estero per motivi fiscali. Ieri la precisazione ce la racconta Armando Torno. Riccardo Muti, nella trasmissione Musica Maestro, andata in onda ieri sera alle 21 su Radio 24, una trasmissione che verrà replicata questa notte, ha semplicemente dichiarato di avere la residenza fiscale in Italia e di pagare le tasse in questo paese. Il maestro ha aggiunto che è imbarazzato per coloro che, avendo una residenza fiscale all'estero, fanno i moralisti in Italia. Non intendeva attaccare o bacchettare persone specifiche, né altri enti, né colleghi, ma semplicemente far notare un malcostume italiano che riguarda sì direttori, cantanti, registi, ma anche sportivi, imprenditori, finanzieri. In particolare, Muti ricordava di aver vinto 2 premi, uno in Svezia e uno in Spagna. Quello in Svezia, ricordo che un Nobel della musica, che consta di ben $1 milione. E il maestro Muti ha fatto notare che è felice di restituire al suo paese quello che la cultura e lo spirito italiano gli hanno dato a suo tempo. They pluck in thousands strong. We'll just play. È morto all'età di 84 anni il regista britannico Ken Russell, figura controversa e discussa nel panorama cinematografico. Diresse I Diavoli, Sulle possedute di Loudon e Sui roghi. Notissimo anche Tommy, opera rock nata dal lavoro del complesso dei Who, che state sentendo appunto in sottofondo, Estati di allucinazione, Donne in amore e La casa Russia, tratto da Le Carré. Musica, prosegue fino al 4 dicembre il Parma Jazz Frontiere Festival, giunto alla 16ª edizione. La rassegna offre un ampio spaccato del jazz contemporaneo, soprattutto per quanto riguarda la scena europea. Il cartellone offre in particolare la presenza di gruppi scandinavi come l'Arve Eriksen Trio e John Sermon con la Big Band di Bergen. Al microfono di Paolo Panceri, direttore artistico Marco Bonatti, sentiamo. Dal grande albero della tradizione afroamericana, diciamo, è nato un ramo tanti anni fa che è quello del jazz europeo, e questo jazz europeo, a mio modo di vedere, ha dato negli ultimi 30 anni anche i frutti più interessanti, credo, della scena. E il contributo italiano è molto importante, nel senso che io ho avuto la fortuna, diciamo, di militare per tanti anni nell'ottetto di Gianluigi Trovesi, per esempio, e di collaborare con un grande musicista come Giorgio Gaslini per tanti anni, e basterebbero anche questi due nomi per caratterizzare un filone anche particolare di quello che è la musica. Allora io credo che molti musicisti italiani hanno un livello molto alto, chiaramente. Ci sono tanti musicisti, no, che si sono fatti strade e stanno percorrendo delle strade che sono assolutamente internazionali. È tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.